Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sì, partiamo anche stasera. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Focus Economia. Vi ho fatto ascoltare un po' più del solito la nostra marcia musicale di apertura. Abbiamo messo un po' di ordine fra tutti i nostri documenti di questa sera che ci accompagneranno nel racconto della giornata economico-finanziaria, perché anche oggi le tematiche non ci mancano e sono notizie tutte molto interessanti. Faremo letteralmente il giro del mondo in questa puntata, perché parleremo di Europa, parleremo dei nostri conti naturalmente, parleremo anche di Turchia, parleremo di mercati finanziari internazionali come sempre e parleremo anche però di un evento storico che ci riguarda, e 50 anni dello Statuto dei Lavoratori. Qualche cosa l'abbiamo già raccontata questa mattina a Due di Denari, e questa sera ne parleremo un po' più diffusamente per capire qual è l'eredità che in questo momento è possibile raccontare di questo documento così importante, che vide la luce proprio il 20 maggio del 1970. Il padre di questo documento è universalmente riconosciuto come Gino Giugni, e cercheremo più tardi con il professor Giuliano Cazzola di così esaminare un po' l'eredità di Giugni, anche alla luce delle problematiche attuali che vive il mercato del lavoro, un mondo del lavoro che si è letteralmente modificato con una accelerazione delle trasformazioni che si è concentrata proprio negli ultimi anni con lo smart working, e questa è la grande novità soprattutto di questi ultimissimi anni, la gig economy, le modalità appunto di lavoro agile, tutta la modifica degli ammortizzatori sociali a cui abbiamo assistito di recente, e non solo, anche per fronteggiare la crisi che ci attanaglia in maniera particolare in questa fase, ma che per la verità è stata un po' il come dire, anche la grande caratteristica dell'Italia negli ultimi anni. Insomma, un paese che, come sapete, ha avuto una crescita molto più contenuta rispetto alle altre economie, di conseguenza il mondo del lavoro che le è andato dietro. Ma insomma, avremo tanti spunti di cui parlare, sui quali riflettere. Poi gli altri temi di cui parleremo, dicevamo, faremo un giro del mondo, andremo anche a Bruxelles. Oggi la Commissione europea ha varato le previsioni di primavera, e chiaramente sono previsioni pessime perché tengono conto dell'impatto economico della pandemia, e però c'è anche la ricetta di Ursula von der Leyen da dove si vorrà ricominciare, dal digitale, dall'ambiente, sono i suoi grandi cavalli di battaglia, e anche nelle previsioni di questa sera questi temi appunto vengono largamente analizzati e discussi. Per quello che riguarda la borsa, oggi è stata una giornata a doppia faccia, perché la mattinata è stata proprio pessima, gli indici rispondevano alla chiusura negativa di ieri sera di Wall Street, e poi oggi, complice la ripartenza molto buona del mercato americano, l'Europa nella seconda parte della seduta ci ha ripensato, e adesso gli indici sono tutti positivi e si stanno gradualmente rafforzando. A tutti gli interessati, visto che ne abbiamo parlato molto in questi giorni, BTP Italia, terza giornata di collocamento, terza ed ultima per quello che riguarda il pubblico retail, il pubblico dei risparmiatori indistinti, 5 miliardi di raccolta odierna, il record giornaliero. La notizia è proprio di qualche istante fa, per la verità manca ancora una mezz'ora prima della chiusura del collocamento di oggi, e quindi complessivamente abbiamo fino ad ora un volume totale di raccolta di 13,7 miliardi, e domani peraltro è la giornata degli investitori istituzionali, per cui non abbiamo ancora visto tutto, ma il Tesoro sicuramente può dirsi soddisfatto rispetto a questa operazione, che aveva avuto delle premesse forse non del tutto incoraggianti, perché questo c'è da dirlo, visto che abbiamo detto più volte che questa è stata un'emissione speciale con una finalità esplicita, una finalità dedicata a trovare le risorse per coprire tutti i finanziamenti che si devono mettere in campo per fronteggiare l'emergenza economica. E allora, a quanto pare, il popolo del risparmio italiano, dei risparmiatori italiani, ha risposto appunto con questa vena patriottica che hanno di nuovo rimesso in campo. Allora, per commentare con noi, se vorrete, i temi del giorno, potete farlo ancora una volta al 349-238-6666, è il numero con cui riceviamo i vostri sms e anche i vostri messaggi su WhatsApp. Damiano mi suggerisce di essere attenta con l'italiano che utilizzo, perché avrei utilizzato questa espressione, ma non me ne sono accorta, adesso lo chiedo agli assistenti in studio, a Maria Sole, più pessima, non so a che punto l'ho detto del mio ragionamento, ma se l'ho detto me ne scuso, mi è evidentemente uscito. Un altro ascoltatore mi dice: fra le varie categorie in crisi, in ginocchio, noi parliamo spesso del turismo, delle compagnie aeree, di tanti altri comparti, un ascoltatore mi dice anche i tassisti lo sono, me ne accorgo perché noi abbiamo qua una piazza qui vicino al Sole 24 ore dove c'è una appunto area di sosta per i tassisti, e in questo momento c'è la doppia fila costante di tutte le vetture che evidentemente non vengono molto utilizzate dai milanesi. Ci arrabbiamo tante volte con voi quando non siete molto contenti di tutti i processi di liberalizzazione che dovrebbe riguardarvi, in questo momento però vi siamo vicini perché oggettivamente anche per voi sono tempi duri, durissimi. Peraltro io avevo rifatto amicizia con i tassisti in un'occasione a Roma qualche mese fa, quando eravamo con Mauro Meazza con Due di Denari all'evento della consulenza finanziaria Consulenzia, e in una corsa appunto con un taxi un tassista mi ha consentito di pagare con la moneta elettronica, forse con uno strumento dei più innovativi dal punto di vista digitale per i sistemi di pagamento, e io lì insomma abbiamo molto riso con questo tassista perché lui ci raccontò che ci sentiva spesso in radio e quando si era accorto che eravamo io e Mauro Meazza aveva prontamente messo a nostra disposizione il dispositivo appunto per pagare con il bancomat, non mi ricordo neanche esattamente come l'ho fatto, però insomma, quindi abbiamo rifatto amicizia con i tassisti e oggi la rinsaldiamo senz'altro. Detto tutto questo, tutte queste premesse inutili, direi che adesso è ora invece di andare alla trasmissione, alla parte più utile, quella, una delle più utili, è quella delle notizie in breve. Sono le raccomandazioni, mi dice appunto Maria Sole Alisciandro in assistenza oggi qui a Milano, Barbara Bianchi in remoto, le raccomandazioni della Commissione Europea, non le previsioni, ma probabilmente insomma qualche indicazione previsionale l'avranno dovuta anche rilasciare quest'oggi, perché è importante capire come e quando l'economia riuscirà a riprendersi da questo trauma del Covid. Allora, cominciamo con le materie prime. L'oro oggi viaggia intorno ai 1746 dollari l'oncia, anche il petrolio di nuovo in rialzo, a New York siamo intorno ai 32,8 dollari al barile, il WTI, il greggio di riferimento americano. Stamattina la banca centrale cinese ha mantenuto invariati i tassi preferenziali offerti dalle banche commerciali alla propria clientela, quella reputata migliore, e ha mantenuto invariato anche i tassi di riferimento per i prestiti appunto di altra natura. La misura era molto attesa dopo due limature operate da inizio anno e vorrebbe stabilizzare la liquidità del sistema bancario sul fronte dei finanziamenti alle imprese in questo contesto economico colpito dalla pandemia. C'è stato anche un dato che riguarda la ripresa delle attività lavorative delle piccole e medie imprese, sempre cinesi, a riprendere l'attività alla data di lunedì 18 maggio sarebbe stata una percentuale del 91% delle piccole e medie imprese appunto di quell'area dopo le interruzioni causate dal Covid. La Cina appunto ha lanciato moltissime misure di sostegno all'economia, alle piccole e medie imprese in particolare, che sono state tra le più colpite dell'epidemia. Peraltro, come sapete, c'è anche questo possibile giro di vite invece per quello che riguarda le piccole imprese tecnologiche che vorrebbero quotarsi al Nasdaq negli Stati Uniti, ma che potrebbero essere appunto ostacolate in questo loro intento prossimamente da un giro di vite stabilito dalle autorità americane. Per quello che riguarda invece gli Stati Uniti, l'ufficio del budget del Congresso stima per gli Stati Uniti un calo del PIL del 38% nel secondo trimestre di quest'anno, con un tasso di disoccupazione che potrebbe attestarsi al 15,1%, quindi siamo vicini più o meno al tasso che si è verificato ad aprile, siamo al 14,7% della disoccupazione americana. Per il 2020 complessivamente il PIL americano è stimato contrarsi del 5,6% e l'organismo appunto congressuale, che è un organismo bipartisan, ha rivisto le proprie previsioni di crescita e prevede complessivamente però per l'anno prossimo che il PIL possa riprendersi intorno al 4,2%. Oggi un'altra bizzarra dichiarazione del presidente americano Trump, che ha detto: il fatto che gli Stati Uniti abbiano un più alto numero di casi di coronavirus nel mondo lo considero in un certo senso una buona cosa, perché significa che i nostri test sono molto migliori di quelli che fanno altrove. Quindi lo vedo come un distintivo d'onore. Trump lo ha detto parlando con i giornalisti dopo la prima riunione di gabinetto alla Casa Bianca dall'inizio dell'epidemia. A Trump era stato chiesto se stesse valutando un divieto di viaggio in America Latina, soprattutto in Brasile, terzo al mondo oggi per contagi. Intanto, in quasi tutti gli stati americani, praticamente in tutti i 50 stati americani, hanno gradualmente ricominciato ad aprire le attività economico-produttive dopo oltre 2 mesi di lockdown. Il Connecticut oggi è l'ultimo stato a ripartire con la riapertura di negozi, musei ed uffici. Oggi il punto della situazione è stato fatto dal New York Times. Le restrizioni ancora in vigore evidenziano una situazione sul tessuto americano appunto a macchia di leopardo. Andiamo alle notizie europee. Lo scorso aprile il tasso di inflazione nell'eurozona è sceso allo 0,3% rispetto allo 0,7% di marzo. È stato quindi rivisto al ribasso. È stata rivista al ribasso la prima stima. Generalmente Eurostat, l'organismo di statistica europea, indica una stima flash e poi appunto il dato consolidato. Nell'insieme dei paesi europei il tasso di inflazione lo scorso mese si è attestato allo 0,7% rispetto invece all'1,2% registrato a marzo. Intanto Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia hanno fatto sapere che presenteranno una controproposta al piano franco-tedesco, al piano Merkel-Macron. Come sapete, questo piano, questo recovery fund che è stato annunciato in questo rinnovato asse franco-tedesco proprio un paio di giorni fa, ma c'è appunto la controproposta di un altro gruppo di paesi sempre europei. L'annuncio oggi è stato fatto dal cancelliere tedesco Sebastian Kurz. Vogliamo essere solidali con gli stati che sono stati colpiti duramente dalla crisi, ma ha precisato con grande simpatia, aggiungo io, che la strada giusta, riteniamo, ha detto, che la strada giusta siano mutui e non contributi. Peraltro avrebbe detto anche dell'altro, appunto gli aiuti devono andare a coloro che sono stati colpiti di più, ma una cosa è certa, sono soldi che adesso certamente vanno a Italia, Spagna o anche Francia, vanno usati per superare la crisi, ma andranno restituiti. Tra l'altro Kurz ci ha messo anche un altro carico di briscola, sempre riferendosi al nostro paese, ha detto che una riapertura del confine con l'Italia sarebbe in questo momento irresponsabile alla luce dei dati epidemiologici appunto che riguardano il nostro paese. Un'eventuale riapertura entro l'estate dipenderà esclusivamente dall'andamento in Italia. Kurz, che cosa le dobbiamo dire? Invece di Vienna sceglieremo altre località. Allora, andiamo a vedere invece le statistiche, le notizie odierne arrivate dalla Banca Centrale Europea, che fa un bilancio del primo PELTRO, il programma di liquidità per l'emergenza pandemica rivolto alle banche per sostenere credito a famiglie e imprese. Il primo peltro, chiamiamolo così perché l'acronimo in italiano si legge in questa maniera, si conclude con 851 milioni di euro aggiudicati. Si è conclusa così in questa maniera questa prima asta di questo programma. Era una prima asta rivolta alle banche di minori dimensioni a cui sono stati offerti prestiti ad un tasso di interesse di 25 punti base inferiore al tasso principale, che già attualmente è a zero. Le banche sono in attesa del nuovo TLTRO, la cui asta è fissata adesso per il 18 giugno. Andiamo alle notizie dall'Italia prima del primo approfondimento di oggi. Allora, sul BTP Italia vi ho già detto, la Banca d'Italia oggi ha fatto sapere di continuare a rilevare presso le banche con cadenza settimanale i dati riguardanti sia l'attuazione delle misure governative di cui ai decreti legge Cura Italia e liquidità, quindi moratoria, mutui e prestiti, e poi c'è stato il provvedimento liquidità, appunto, con cui è stata data la disponibilità alle aziende che ne avessero bisogno di chiedere prestiti con garanzia o molto agevolati, tutto ciò contenuto appunto nel provvedimento liquidità. E poi la Banca d'Italia ha anche detto: monitoriamo le iniziative di categoria e quelle offerte bilateralmente dalle singole banche alla propria clientela. E allora qualche dato in ordine sparso rispetto alle prime statistiche, al primo monitoraggio, questo monitoraggio della Banca d'Italia. All'8 maggio sono pervenute quasi 2 milioni e 300 mila domande o comunicazioni di moratoria su prestiti per circa 240 miliardi. Quasi il 44% delle domande provengono da società non finanziarie. Le domande delle famiglie, quasi 1,2 milioni, riguardano prestiti per 74 miliardi di euro. Crescono rapidamente e sarebbero in questo momento poco più di 105 mila le domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa e l'accesso al cosiddetto fondo Gasparrini, che peraltro, ricorderete, abbiamo parlato molto, è stato ampliato anche in termini di disponibilità economica per consentire l'accesso anche ai lavoratori autonomi, alle partite IVA che mediamente non hanno la possibilità di sospendere il mutuo per la prima casa. E quindi, insomma, c'è una statistica molto dettagliata rispetto alle domande arrivate fino a questo momento, che riguarda questa statistica anche le richieste di garanzia pervenute al fondo di garanzia nel periodo dal 17 marzo al 19 maggio, e sono domande arrivate complessivamente nella misura di 287.268. Allora, tutto bello che ci facciano, ovviamente, dalla Banca d'Italia, anche ABI lo fa ricorrentemente questo bilancio, che ci facciano la fotografia delle domande. A noi piacerebbe di più sapere quella che è la fotografia delle risposte, quindi quante persone avete accontentato, quante persone è stata data e concessa la moratoria dei mutui, dei prestiti, e soprattutto quanti finanziamenti sono stati erogati, perché è proprio da questo punto di vista che ci arrivano molto più lamentele da parte soprattutto delle piccole e delle medie imprese. Ancora un paio di domande, poi andiamo al primo tema perché è già tardi, tardissimo. Abbiamo vinto la prima battaglia col virus e rimesso il paese in sicurezza. L'indice di contagiosità R0 è passato da 3,5-4 a 0,5. Da questo patrimonio ripartiamo nella fase 2. Così il ministro degli affari regionali Francesco Boccia, oggi in audizione alla Commissione Federalismo Fiscale della Camera. Le regioni siano responsabili di cosa far ripartire e quando riaprire. E poi dal 3 giugno niente mobilità tra regioni ad alto rischio, una notizia che aspettavamo, mi ci metto anche io, in molti, perché si fa molto affidamento sulla possibilità che si possa consentire uno spostamento infraregionale dal 3 giugno, e magari fra qualche regione sarà anche concesso, ci sarà più elasticità. Vedo molto dura la prospettiva per i lombardi che vorranno spostarsi altrove, almeno secondo le indicazioni appunto del ministro agli affari regionali Francesco Boccia. Altre dichiarazioni del premier Conte: non è il momento della movida se non la curva risale. E poi anche il governatore della regione Lombardia Fontana è intervenuto su questi aspetti: troppi apericena, vedo ancora bar sommersi di persone, è andata meglio di come immaginassi, ho visto un gran rispetto da parte dei cittadini delle regole, però ci sono ancora piccole sacche, alcune attività sulle quali non riusciamo ad avere una convinzione sufficiente. Troppi apericena, troppi bar sommersi, quindi naturalmente facciamo ancora tutti molta attenzione. Magari ancora un paio di notizie lo diamo sulle persone in difficoltà. Molti ambulanti hanno protestato oggi davanti alla regione a Milano, e poi delle dichiarazioni del ministro dei trasporti Paola De Micheli, che ha indicato anche in questo caso nella data del 3 giugno come la data per la riapertura di tutti gli aeroporti, un ulteriore incremento oltre a quello già realizzato con il decreto 207 dei servizi di trasporto potrà essere disposto a partire dal 3 giugno, data da cui saranno ragionevolmente ipotizziamo e speriamo, quindi ancora tutto condizionale, la certezza non c'è, consentiti appunto gli spostamenti interregionali così come quelli da e per l'estero. Allo stesso modo sarà possibile procedere a riaprire tutti gli aeroporti dal 3 giugno, quando saranno nuovamente consentiti i trasferimenti interregionali ed internazionali, e quindi da qui in avanti saremo tutti appesi a questa data e alla situazione che si potrà verificare in quel momento. È tardissimo, andiamo subito al primo tema di oggi. Buonasera ad Antonio Pollio Salimben, Il Sole 24 Ore da Bruxelles. Antonio, ben trovato e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, la Commissione europea oggi ha pubblicato le sue raccomandazioni annuali, le sue raccomandazioni paese. Questa volta sono segnate dalla pandemia di Covid-19 che ha colpito il continente, ha colpito molto duro, soprattutto per quello che riguarda l'Italia. Le raccomandazioni sono generalmente uno strumento che rientra nella politica di coordinamento delle politiche fiscali dei Paesi membri, il cosiddetto semestre europeo, e valutano i programmi nazionali di riforma dei diversi Paesi, appunto, ricevuti in aprile. E allora chiaramente si guarda alla crisi attuale, ancora grave, ancora molto seria, ancora con qualche difficoltà nell'individuazione di ricette comuni e condivise per poterne uscire. Di sicuro però si cavalcheranno i due grandi cavalli di battaglia, Antonio, di Ursula von der Leyen, l'ambiente e il digitale. Cosa è stato detto rispetto a questo e quale punto della situazione è stato fatto rispetto all'emergenza economica? Beh, dunque, sull'ultimo punto, cioè su dove deve essere orientato lo sforzo degli stati della moneta unica e degli altri e dell'Unione Europea in quanto tale in questa fase di preparazione del rilancio dell'economia, questi obiettivi sono appunto la trasformazione verde dell'attività economica e la digitalizzazione dell'economia. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ci deve essere un nesso stretto fra le misure di emergenza sul piano del rilancio dell'economia in termini di investimenti e le prospettive nelle quali la UE ritiene di dover eccellere e dover fondare e dover costruire come leva per un rilancio dell'economia duraturo e consistente. C'è da dire che, stante la situazione di profonda recessione, che nessuno sa quanto durerà e come riuscirà a emergere non solo la UE in quanto tale, non solo l'Eurozona in quanto tale, ma ciascuno Stato per quanto lo riguarda, è evidente che l'aumento dell'indebitamento di tutti i Paesi non richiede alcun intervento normativo procedurale dalla parte della UE, dell'Unione Europea. Sappiamo che il patto di stabilità, cioè le regole di bilancio, sono sospese, tuttavia si profila a un certo punto, e se ne discuterà in autunno, si profila una discussione su quando farle tornare in auge. Non a caso il commissario dell'economia Paolo Gentiloni ha indicato espressamente che nella fase di quando la crisi sanitaria sarà alle spalle, sostanzialmente, non si devono commettere gli errori del consolidamento fiscale che andò a detrimento degli investimenti, gli errori compiuto 10 anni fa quando l'Europa ricominciò a uscire dalla crisi spaventosa del debito sovrano. Insomma, quindi è ancora sicuramente molto presto per poter stabilire, è prematuro per poter stabilire come potranno essere le regole di rideterminazione, appunto di rientro in gioco del patto di stabilità. È chiaro che qua si viaggia di mese in mese per tentare di capire, di quantificare l'impatto sul PIL di questa grave crisi e di conseguenza anche i lacci e lacciuoli precedenti, se così li vogliamo definire, comunque le regole di esistenza in Europa, se verranno ripristinate. Bisognerà capirlo appunto con gradualità. Antonio, l'asse franco-tedesco famoso degli ultimi giorni, oggi c'è la controproposta di Sebastian Kurz dall'Austria, insomma sono temi che all'atere oggi a Bruxelles sono stati commentati in qualche maniera da chi oppure no? Beh sì, naturalmente ancora non si capisce il volume finanziario preciso del Recovery Fund, il Fondo Europeo per la Ripresa. C'è la proposta sul tavolo franco-tedesca che prevede 500 l'emissione di titoli comunitari attraverso il bilancio UE, attraverso probabilmente la garanzia degli stati, per raccogliere sul mercato 500 miliardi da dare alle regioni e ai settori più colpiti, cioè agli stati più colpiti, prevalentemente una grossa parte andrebbe a Italia e Spagna, per 500 miliardi in termini di sovvenzioni, non in termini di prestiti. I quattro paesi cosiddetti frugali, perché si sono sempre battuti per un bilancio europeo molto ridotto rispetto ai livelli del bilancio europeo 2014-2020, e cioè Austria, Svezia, Danimarca e Olanda, hanno indicato che prepareranno un contropiano fondato, a quanto pare di capire, sui prestiti, non sulle sovvenzioni. Prestiti che dovranno essere subordinati anche a impegni a evitare che la prossima volta questi stati non si trovino più a non avere dei margini fiscali per intervenire nelle catastrofi. Vedo che questo sarà un bel braccio di ferro. Assolutamente. Guarda, lo vedo già dagli ascoltatori quanto questo sia un tema divisivo. Qualcuno mi dice: ma perché vi scandalizzate dalle dichiarazioni di Sebastian Kurz? È ovvio che se un paese va aiutato, chiede un prestito e va restituito. Sì, io capisco, magari se ti trovi in una crisi drammatica, è chiaro che, come dire, ha delle lettere scarlatte al petto l'Italia e come sempre viene additata come un paese un po' leggero, la gestione del debito pubblico non sempre troppo seria, forse negli ultimi anni, insomma, grande spesa pubblica, ma questa crisi qua io credo che vada gestita in maniera diversa, per cui se qualche linea a fondo perduto che vada a beneficio di tutti, non è che dico che deve essere per forza data all'Italia in un ammontare diverso rispetto agli altri, ma forse un po' più di elasticità rispetto alla considerazione di questo aspetto ci dovrebbe essere. Invece vedo già delle rigidità che sono già state preannunciate. Questo evento di oggi, la presentazione appunto delle raccomandazioni, è propedeutica, Antonio, alla presentazione il 27 maggio della bozza di bilancio comunitario, giusto? Sì, sì. E insieme la Presidente von der Leyen presenterà anche la proposta definitiva del Recovery Fund. Recovery Fund. Volevo solo aggiungere una questione. È vero che è diverso se uno Stato chiede un prestito e se a uno Stato viene data una sovvenzione, però in entrambi i casi, intanto perché non lo deve restituire, la novità della posizione franco-tedesca è che Berlino per la prima volta accetta il fatto che il ripagamento del capitale non è dovuto in quota ai singoli paesi, ma è redistribuito tra tutti i paesi. Questo è l'elemento di condivisione politica e finanziaria molto importante. In ogni caso, siccome tutta l'operazione, sovvenzioni o prestiti che siano, passerà attraverso il bilancio UE, attraverso le procedure e i meccanismi del bilancio dell'Unione Europea, questo in realtà significa che i soldi non è che non li spende come diavolo vuole. Questo è il punto vero. Se rientrando nel bilancio europeo ci sono una serie di filtri politici e regolamentari, democratici, perché il Parlamento è un'entità democratica, democraticamente eletta, che sorveglia insieme con la Commissione che siano rispettate le finalità degli investimenti. Questo è il punto. Ed è sacrosanto che dando dei doni o dando dei prestiti si valuti, nel caso dei prestiti, la capacità di ripagamento, nel caso dei doni non c'è ripagamento, ma che siano coerenti con una strategia europea. Ecco, insomma, il dibattito potrebbe essere questo. Vediamo come poter valutare sovvenzioni, però con una finalità esplicita e soprattutto con i risultati che potranno essere, di cui si dovrà necessariamente chiedere una spiegazione se verranno raggiunti o meno. Grazie ad Antonio Poglio Salimbeni. Sicuramente torneremo a sentirti più avanti, anche in occasione magari della presentazione del bilancio comunitario. Buona serata, Antonio, a presto. Grazie a voi. Ci fermiamo, una pausa e poi andiamo a vedere come si è chiusa la giornata di borsa. Focus Economia. Allora, Milano chiude la seduta con un rialzo di un punto percentuale. Prima di interagire, però intanto lo saluto con Paolo Paronetto, Radio Colle Sole 24 Ore. Paolo, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. A tutti. Volevo rispondere ad un ascoltatore che fa una scenata di gelosia, Francesco, che ci racconta. Le vorrei ricordare, visto che ho salutato tutti i tassisti d'Italia che sono molto in difficoltà in questo periodo, lavorano poco, però insomma Francesco dice: guardi che i tassisti hanno subito un calo del lavoro del 70%. Le vorrei ricordare che il noleggio con conducente, che probabilmente non rientra fra le vostre amicizie, è a fatturato zero. Ma per quale motivo, Francesco? Ma io non ce l'ho con voi, cioè è un po' tutto questa tipologia di trasporto che è in grande difficoltà. Io la saluto veramente affettuosamente e mi dispiace molto, perché anche io per lavoro in realtà mi è capitato molto spesso di essere trasportata anche da un professionista che opera nel vostro settore. Un altro ascoltatore invece, Paolo, cominciamo subito così, si dichiara molto preoccupato dell'andamento di Telecom Italia. Tim ci scrive: Giuseppe, in due giorni è stato un crollo verticale delle quotazioni del titolo. La mia e la nostra paura di piccoli risparmiatori è che siamo davanti ad un fallimento annunciato di cui tutti sanno e nessuno parla. Allora, a parte il fatto che Telecom vive e convive con debiti stratosferici da tutta la vita e non è mai fallita, se fallisse proprio in questo periodo che lavoriamo solo grazie alle telecomunicazioni, sarebbe un disastro per il paese. Detto questo, Paolo, forse è il caso di spiegare che qua è tutta colpa delle vendite allo scoperto che sono ricominciate ieri, perché molta responsabilità ce l'ha anche questo fattore. Certo, sicuramente. Telecom è vero che è stata anche oggi molto colpita dalle vendite, alla fine ha perso un altro 7,86% dopo il meno 8,6% di ieri, però appunto è stato fin dall'inizio uno dei titoli più colpiti dal ritorno delle vendite allo scoperto, che sono riprese ieri dopo, in seguito alla sospensione del divieto da parte della Consob. Team è stato da subito uno dei titoli più colpiti, così come ieri molti titoli bancari. E diciamo che l'altro pretesto, parlo di pretesto perché secondo gli analisti in realtà i dati non erano così cattivi, l'altro pretesto è stato quello dei conti trimestrali, che hanno visto un calo dei ricavi dell'11% e anche un calo del margine EBITDA, anche se secondo appunto gli analisti le indicazioni fornite dal management rimangono incoraggianti e molti hanno confermato i propri giudizi senza quindi rivederli al ribasso. Bisognerà vedere naturalmente anche quando si assesteranno le posizioni da parte degli shortisti, appunto come riprenderà le quotazioni della società, così come quella insomma Terolistino, che ieri appunto era stato molto colpito da questo fenomeno. Mm-hmm. Allora, intanto rilascio la consueta Polaroid, gli ascoltatori anche degli altri indici: Parigi più 0,87, Francoforte più 1,34, Londra più 1,11%, sta correndo Wall Street, lo Standard & Poor's si è avviato con un rialzo deciso, adesso lo sta incrementando più 2 punti, Dow Jones più 1,34%. Torniamo a Piazza Affari, allora vediamo un po' di parlare delle società che oggi si sono ben comportate. Diasol Ne più 5,58, Amplifon più 5, Enel più 3,56%. Ci sono storie particolari dietro a questi rialzi, Paolo? No, beh, diciamo che in un mercato che comunque anche nelle giornate positive rimane caratterizzato naturalmente da molta incertezza, sono premiati i titoli difensivi, come abbiamo visto sono andati bene i farmaceutici, che oltre alle loro caratteristiche difensive naturalmente sono spesso sotto i riflettori in queste settimane per notizie riguardanti la pandemia. Diasorin oggi è stato il migliore, il titolo ha aggiornato il massimo storico come fa ormai da parecchie sedute. Anche le utility soprattutto sono andate bene, gli energetici in generale hanno approfittato nel pomeriggio di un petrolio che ha accelerato e oggi in questo momento è in rialzo di oltre 3 punti percentuali per quanto riguarda il WTI. E tra le utility si sono messe in evidenza in particolare Enel, che è salito del 3,56%, ma anche Terna è salito del 2,33%, più 2,1% anche per ERA. Allora, intanto altri ascoltatori oltre a Telecom si lamentano dell'andamento di altri titoli, il Banco BPM per esempio, sempre per la questione delle vendite allo scoperto, oggi ha perso lo 0,4% in giornata, è arrivata a perdere molto di più, poi si è risollevata sul finale, ieri forti vendite, c'è da dire che il settore bancario va così e così per tanti temi, certamente la necessità di rinunciare all'erogazione del dividendo ha allontanato molti ascoltatori, molti ascoltatori ascoltatori, molti investitori nelle ultime settimane, e ci sono anche degli ascoltatori che investono nelle banche, ce l'hanno scritto, e poi chiaramente sopportano in ogni modo questa crisi, devono accontentare i clienti con i prestiti, insomma è un settore bersagliato ancora una volta da questa fase emergenziale, no Paolo? Oggi per le banche com'è andata a Piazza Affari? Beh, diciamo intanto che ieri l'amministratore delegato del Banco BPM Giuseppe Castagna ha proprio puntato il dito sulle vendite allo scoperto, è stato proprio lui, l'ha detto esplicitamente, che ha attribuito i motivi del calo al ritorno degli shortisti sul titolo, in generale sui titoli bancari. Inoltre lo stesso Castagna, forse involontariamente, ha aperto un altro fronte con i sindacati, perché ha parlato della necessità di rivedere il piano industriale che era stato presentato solo all'inizio di marzo, naturalmente alla luce del contesto modificato dall'impatto della pandemia Covid-19, parlando della necessità di partire da tenere i costi sotto controllo e quindi magari anche incrementando il piano di chiusura delle filiali previsto, parole che naturalmente non sono piaciute ai sindacati, che hanno promesso battaglia, quindi anche questo fronte potrebbe tenere il titolo sotto pressione nell'immediato. In generale le banche oggi hanno chiuso contrastate, la mattinata era stata negativa nuovamente, poi in alcuni casi sono migliorate, sono passate in positivo nel pomeriggio in scia all'indice, e la peggiore è stata la Popolare dell'Emilia Romagna che ha perso l'1,73, mentre tra le migliori ci sono state le due big, Unicredit più 0,6% e Intesa San Paolo più 0,57%. Sì, ho spento il microfono, proprio la furberia oggi totale. Leonardo Finmeccanica ha sospeso le previsioni per il 2020, tutto sommato però ecco, quando le società fanno questi annunci il mercato li accoglie molto male, in questo periodo invece è diventata ormai una ricorrente e quindi il titolo oggi tutto sommato è andato bene, più 0,9%, sono state fornite anche altre indicazioni sull'andamento della difesa, l'aeronautica, Paolo? Oggi c'era stata l'assemblea che ha approvato il bilancio e nominato un nuovo CDA come d'attese, e sì, diciamo che ormai la sospensione degli outlook ormai il mercato la sconta su tutti i titoli, quindi diciamo che era una notizia attesa. Inoltre c'era l'agenzia di rating Fitch che ha confermato il rating sulla società ma ha abbassato l'outlook a negativo, e proprio sulla scia di questa notizia il titolo era partito male, in mattinata era arrivato a perdere anche il 3%, poi diciamo che nel pomeriggio ha risalito insieme a tutto il listino ed è riuscito appunto a chiudere in positivo, come ricordavi tu, più 0,89%, quindi è stata una giornata un po' altalenante, ma sul finale, grazie al recupero degli indici, è riuscita a guadagnare terreno. Grazie a Paolo Parronetto per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi. Buonasera. Pausa, a tra poco. Focus Economia. Allora, non una bancarotta, ma sicuramente potrebbe avvicinarsi una crisi valutaria pesante per un'economia vicino alla nostra, sempre un po' sull'otto volante, anche perché molto condizionata dalla gestione politica. Il paese di cui parliamo è la Turchia, e allora perché ci ha incuriosito questa situazione? Perché da qualche giorno fioccano alla nostra mail segnalazioni di ascoltatori investiti in obbligazioni turche che ci dicono: da qualche giorno non le posso vendere, non le posso negoziare, che cosa sta succedendo? E quindi, come spesso capita, sulla scia di queste segnalazioni noi andiamo un po' a controllare quello che accade, perché non possiamo tenere sotto controllo tutti i mercati, e poi chiamiamo gli esperti che ci spiegano quello che succede. L'esperto di questa sera per questa situazione è Angelo Druziani, consulente di Banca Albertini, noto esperto, e spesso ci è capitato appunto di chiamarlo in passato, di recente un po' meno frequentemente, ma rimedierò al più presto. Esperto di mercati obbligazionari, soprattutto mercati emergenti. Druziani, ben trovato e buonasera. Grazie per l'invito, buonasera. Allora, che cosa sta succedendo? Perché non è che si tratta di un paio di obbligazioni, e peraltro non direttamente obbligazioni del governo turco, ce ne sono in circolazione anche obbligazioni emesse da enti sovranazionali come la BEI, denominati appunto in obbligazioni denominate in lira turca, che pure sarebbero state sospese dalle negoziazioni. Un ascoltatore poco fa mi ha scritto che una di queste in realtà adesso è possibile da trattare in borsa. Insomma, c'è molta confusione. Ci spiega che cosa è stato determinato questo congelamento? Sappiamo che la lira turca ha avuto un tracollo nelle ultime settimane e che cosa c'è dietro a tutto questo, Drusiani? Il problema è sempre legato all'andamento dell'economia. L'economia è quella naturalmente che determina sia la quotazione dei titoli azionari sia indirettamente quella dei titoli obbligazionari. Quindi laddove una crisi si palesa, come sta capitando in Turchia in questa fase, un po' legata alla situazione politica, non dico tempestoso, comunque a livelli abbastanza vicini alla tempesta, un po' perché si sta in Medio Oriente, sapete che la Turchia è vicino a una serie di immigrati notevolissimi che vorrebbero entrare in Europa, li tiene fermi perché l'Unione Europea, l'Eurozona gli dà un bel po' di quattrini, quindi è una situazione politica abbastanza difficile da tenere a mano. Quindi ne parla molto spesso, lo dico per gli ascoltatori che comunque sono affezionati al nostro palinsesto, Gianpaolo Musumeci in Sul luogo e lontano. Credo che proprio di recente abbia di nuovo riaffrontato la questione politica turca. Prego, Drusiani. Sì, e questo fa sì che le aziende che devono investire in paesi in cui i costi di manodopera sono inferiori, però dipende da quando sono i costi politici. Se i costi politici salgono a livelli tali che poi la manodopera sì, costerebbe poco, ma si fa fatica a produrre, la situazione non è più di quelli interessanti. Ma quello che invece secondo me andrebbe valutato con molta attenzione al momento stesso in cui si decide di effettuare degli investimenti anche tra virgolette rischiosi, bisogna guardarsi dentro, guardarsi proprio DNA, capire fino a che punto si è disposti a rischiare, cioè vedere le quotazioni scendere, spesso anche in maniera abbastanza importante, addirittura con blocchi dell'attività stessa, e quindi capire se il peso che ha il titolo acquistato, adesso facciamo l'ipotesi di un titolo denominato in lira turca, è in percentuali, facciamo l'ipotesi del 5%, vabbè, male che vada si perde il 5%, ma se il peso fosse fare 20-25%, sì, come spesso accade, perché io capisco l'avidità, insomma il desiderio di avere dei rendimenti molto alti, è normale che ci sia in eurozone i rendimenti, se si tiene conto del costo delle transazioni, delle commissioni varie che vengono applicate, alla fine i costi con titoli con durata breve, non dico che siano sotto zero, ma siamo molto vicini allo zero. Guardi, è la raccomandazione della diversificazione che noi facciamo sempre, soprattutto a fronte di, se facciamo un paragone con un titolo della medesima durata in Italia che magari viaggia poco sopra lo zero, è chiaro che se tu ne vai a cercare in un altro paese un altro e vedi che per la stessa identica durata il rendimento è molto più alto, evidentemente dietro si cela un rischio altrettanto importante. Ma il punto è capire, Drusiani, ammettendo anche che un risparmiatore accetti di questa decurtazione appunto del proprio investimento, il punto è capire perché sono state sospese in queste giornate le obbligazioni, la compravendita appunto delle obbligazioni turche. Nelle fasi di critiche come sono queste per la Turchia in generale dal punto di vista finanziario, il Ministero delle Finanze ha l'opportunità di bloccare sia la borsa sia la transazione sulle obbligazioni, quindi spesso lo si fa, ad esempio l'Italia, se voi fate un riferimento, non c'entra nulla con la Turchia per carità, però ieri l'Italia ha riaperto le vendite allo scoperto sui titoli azionari ed erano state chiuse, quindi sono delle decisioni che assumono i ministeri delle finanze dei singoli paesi e che noi non possiamo controllare. No, poi aggiungo, siccome poi gli ascoltatori, lo dico, se la prendono con le piattaforme con le quali fanno queste operazioni, purtroppo le operazioni, gli intermediari si adeguano alle decisioni prese da altre sedi, non è colpa loro, non possono avvisarti due ore prima, guarda che il governo turco probabilmente ha intenzione di sospendere in questo momento queste obbligazioni perché non sa se le potrà rimborsare, quando andranno a scadenza deve evidentemente con le controparti finanziarie rinegoziare le condizioni, non lo so, fare che ne so idee di ristrutturazione, non lo so cosa sta succedendo in questo caso, ma il punto è, lo dico agli ascoltatori, è inutile che vi arrabbiate con le piattaforme, loro non lo sanno e quindi possono fare quello che quanto più possono per tutelare i propri clienti, ma non tutto. Questo è uno di questi casi, Drusiani, credo. C'è da dire che molto spesso sono situazioni che non vengono comunicate il giorno prima, ma nel momento stesso in cui l'attività sta per iniziare o è già anche iniziata, quindi si sospende l'attività a metà giornata e poi da lì non si va avanti, poi si riprende quando verrà deciso dall'autorità infatti finanziaria del paese. Alcune obbligazioni sono sospese credo dal 15 maggio e questi ascoltatori che ci hanno scritto solamente ieri, se ne sono resi conto ieri. Sì, detto questo, per tutto il debito in circolazione della Turchia c'è la possibilità dell'insolvenza, Drusiani? Al momento non parrebbe, perché ho visto che anche la quotazione anche il rapporto di cambio fra euro e nuova lira turca è un po' migliorata fuori della lira turca, quindi vuol dire che c'è ancora qualche spiraglio di trattativa. E non conviene mai a un paese, tra l'altro un paese che è molto vicino a una delle zone più avanzate del globo, parliamo dell'Eurozona, nonostante tutte le varie polemiche che si fanno. Quindi non conviene, se ricordate la Grecia fu salvata in mille modi, io credo che la Turchia probabilmente qualcuno potrebbe venire in aiuto. C'è da dire però che dal punto di vista politico la Turchia si è messa in un bel ginepraio, perché un po' con gli Stati Uniti, un po' con la Russia, non so chi fra i due sia più interessata in questo momento a dare una mano laddove ne avesse necessità. Non va dimenticato che gli Stati Uniti hanno le elezioni a novembre, che la Russia adesso ha altre problematiche da seguire legate un po' alla malattia che si sta diffondendo anche là, esatto. Un po' al petrolio, quindi credo che si è più interessato a problemi interni che non a quelli esteri. Leggevo quindi qualche articolo, credo che abbia chiesto aiuto la Turchia anche al Qatar, alla Cina, alla Gran Bretagna, trattative in corso ma ancora con ben poche risoluzioni positive. E poi chiaramente bisognerà capire anche se per esempio altri organismi come non so, il Fondo Monetario Internazionale possa intervenire in casi come questo, laddove appunto la precarietà politica è sempre molto, molto alta. Grazie ad Angelo Drusiani per essere stato con noi. Magari torneremo anche a Due di Denari a parlare di questo argomento, perché se qua continuano a fioccare le richieste degli ascoltatori che hanno in mano queste obbligazioni, oltre a bacchettarli sulle mani, bisognerà spiegare loro appunto come potersi tutelare. Andiamo a sentire il giornale radio, Filippo, ok? Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, da Brazzale, due secoli di cose buone. Ciao, Vincenzo da Palermo, I love my radio. Ciao, sono Riccardo da Genova, I love my radio. Ciao, sono Corrado da Roma, I love my radio. Gli italiani amano la radio, il 71% la ascolta anche da casa. L'ascolto da supporti digitali è aumentato del 24% e per il 59% degli italiani la radio è relax e allegria. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani, anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Focus Economia. Ci ritrovate in diretta, ancora una buona serata a tutti da Deborah Rosciani. E allora, fatto soffrire un po', tant'è che qualcuno l'aveva ribattezzato decreto ritardo, il decreto rilancio c'è in Gazzetta Ufficiale da ieri notte. A una settimana dall'ok del Consiglio dei Ministri, il governo è riuscito a chiudere a bollinare e quindi avere la certificazione della consistenza economica di tutto il pacchetto, la maxi manovra da 55 miliardi con tutti i nuovi aiuti a famiglie e imprese e le risorse, ha assicurato il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, saranno subito disponibili. Perché questo poi è un altro grande punto delle risorse messe in campo. Sapete che c'è una discussione molto differenziata sul territorio fra chi effettivamente per l'indennità che gli spettava, la provvidenza che gli spettava, è riuscito ad ottenere subito quello che chiedeva e altri invece che sono lì appesi alle richieste appunto fatte, chi alla banca, chi all'ente pubblico, insomma una situazione molto eterogenea. E comunque il provvedimento è lievitato, nell'ultima versione alla fine abbiamo 266 articoli, contiene fra le altre cose il bonus baby babysitter o per i centri estivi fino a 1200 euro che si potrà chiedere da oggi, ha detto Gualtieri, ma anche un ventaglio di nuovi interventi per le imprese, aiuti a fondo perduto, che non si rivolgeranno solamente ad autonomi e professionisti fino a 1000 euro nella terza tranche, ma anche a piccole imprese fino a 5 milioni di fatturato. Sempre le piccole avranno più tempo per rimborsare i prestiti garantiti al 100% dallo Stato fino a 25.000 euro. Il termine per restituirli passa da 6 a 10 anni, anche questa è un'altra bella grande boccata d'ossigeno. Salgono i fondi destinati alle scuole paritarie, che saranno in tutto 150 milioni, di cui 65 per il ristoro delle mancate rette per chi fa servizi di asilo nido per l'infanzia, qua insomma ho un sacco di materiale per due di denari, e poi 70 milioni per le scuole primarie e secondarie per le mancate rette di studenti fino a 16 anni. Ma tutto facile, tutto bello, tutto positivo, sì, fino ad un certo punto. Dino Pesole, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Deborah, eccomi. E allora, mancano a malapena 98 decreti attuativi. E qua arrivano subito le prime grane, perché sappiamo che generalmente, insomma, il settore pubblico, quando si tratta di dare vita alle misure attuative, un po' ci mette, perché noi diciamo dobbiamo mettere a terra questi provvedimenti. Allora, quali saranno secondo te quelli che ostacoleranno di più la piena operatività del decreto rilancio? Ma guarda, questo è veramente il tema più rilevante, perché non c'è dubbio che l'ammontare delle risorse è senza precedenti, perché sono 55 miliardi, si sommano i 25 miliardi del 23 di marzo, quello liquidità, quindi siamo di fronte a due maxi manovre, quest'ultima equivale sostanzialmente a due finanziarie, chiamiamole così. Il punto di fondo è, ancora una volta, nei tempi di realizzazione di tutta questa massa di risorse pubbliche che vengono destinate un po' al lavoro, un po' alle imprese, alla sanità, ai cittadini, a quanti stanno ancora aspettando. Devo dire che questo è l'aspetto anche più controverso e inquietante. Le casse integrazioni sono il grande alert che già vedo ci sta di nuovo sottoponendo il popolo dei nostri ascoltatori. Già, ma questo è un fatto fondamentale, perché è evidente che chi ha subito gravi conseguenze immediate sulla vita di tutti i giorni, la perdita del posto di lavoro, la sospensione del posto di lavoro, e quindi attende la cassa integrazione e non l'ha ancora ricevuta, questo è un fatto molto serio. Quindi obiettivamente c'è un tema di realizzazione che è sempre stato. I 98 provvedimenti attuativi ne sono la testimonianza, ma ad esempio faccio solo il caso che entro 10 giorni, quindi subito, bisognerà attivare la convenzione tra il Ministero delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti per rendere operativo il fondo da 12 miliardi sui debiti commerciali della pubblica amministrazione. Entro luglio al massimo dovranno essere definiti tutti gli altri decreti attuativi, e poi c'è il bonus dei 600 euro per gli autonomi, la seconda tranche di maggio. Quella però dovrebbe essere abbastanza semplice, esatto, per chi l'ha già avuto in aprile, appunto in 2-3 giorni, ha detto Gualtieri, se si hanno tutti i parametri in automatico andranno, quindi almeno quelli là li teniamo tranquilli. A proposito di questo però, guarda, ti blocco subito un attimo Dino, perché qua abbiamo una parte di questa categoria per la quale appunto sta montando la protesta, e parliamo dei professionisti, 2 milioni e 300 mila, che denunciano l'esclusione dalla norma che disciplina il contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e delle imprese che nel mese di aprile 2020 abbiano registrato un calo superiore ad un terzo del fatturato rispetto allo stesso mese di un anno fa. Questa è la novità che emerge appunto dall'ultima versione, dal decreto rilancio, e quindi i soggetti esclusi dal beneficio, tra i soggetti esclusi dal beneficio rientrano anche i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, per i quali c'era già stato un inciampo anche nelle norme recenti. Allora, oggi abbiamo sentito Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, intervistata da Livia Zancaner. Suona veramente inaccettabile la decisione del governo di escludere i professionisti ordinistici dal novero dei soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto del nuovo decreto rilancio. Inaccettabile anche perché è rivolto a una categoria di liberi professionisti che ha svolto il suo lavoro con coscienza, con attenzione e con assiduità nel periodo della crisi. I nostri studi professionali non sono stati chiusi e sono rimasti al servizio delle persone, subendo certamente il contraccolpo di una crisi che è una crisi di ampio spettro e che coinvolge pienamente anche i professionisti italiani. La platea è vastissima perché interessa a tutti gli iscritti alle nostre casse di previdenza privatizzate, quindi più di 1 milione di soggetti che svolgono l'attività in forma autonoma e che non hanno altri strumenti e sussidi per poter avere delle agevolazioni a proseguire l'attività. Gli ordini professionali non possono stare silenti e devono assolutamente chiedere e chiederanno al governo, così come hanno fatto nei giorni scorsi, di ritornare su questa decisione che veramente non è in linea neanche con quelle che sono invece le disposizioni comunitarie di assimilazione dei professionisti ordinistici alle piccole e medie imprese, laddove si parla di accesso a forme di finanziamento o di contribuzione. Focus Economia. Dino Pesole, siamo andati subito in pausa perché eravamo un po' in ritardo, ma vorrei chiederti un commento rispetto a quello che abbiamo sentito, a questa contestazione dei professionisti, gli iscritti alle professioni ordinistiche. Il punto è che, come la metti, è molto facile scontentare qualche categoria, qualcuno può essere tagliato fuori ed è chiaro che lo ritiene una discriminazione. Secondo te, per questa categoria, il tema del fondo perduto potevano essere accontentati? Io credo di sì e credo anche che ci siano le condizioni, francamente, in un decreto che mobilita così tante risorse, stiamo parlando di 150 miliardi in termini di saldo netto da finanziare, che ci possa essere in sede di conversione del decreto, perché adesso lo sappiamo, il decreto è stato approvato, ora c'è il Parlamento che dirà la sua entro 60 giorni, possono e secondo me si dovranno apportare correttivi, perché in un provvedimento monster di 266 articoli è chiaro e evidente che c'era il rischio che qualche cosa non andasse per il verso giusto, che ci fossero delle esclusioni. Faccio l'esempio del decreto liquidità che è in discussione in Parlamento e già lì si stanno ipotizzando dei correttivi, ad esempio per velocizzare tutte le procedure burocratiche per la concessione di liquidità. Quindi io credo che la strada sia questa. Far valere in sede parlamentare un'istanza che secondo me è assolutamente fondata. Esatto, e saranno probabilmente anche quelle le sedi per le quali le categorie scontente di altri aspetti faranno sentire la loro voce. Peraltro tu hai detto in discussione in Parlamento il decreto liquidità anche per snellire le procedure, velocizzare le procedure, smaltire un po' tutto il fardello burocratico. La promessa di Conte è stato il prossimo intervento che faremo sarà in termini di semplificazione, l'ha detto proprio sabato scorso in conferenza stampa. Sì, esatto, però appunto noi si scrivevamo sul giornale di ieri che sono circa 40 anni che si annunciano decreti di semplificazioni alle procedure burocratiche. Ovviamente sarebbe ingeneroso dire negare che non ci siano state delle novità positive. Faccio ad esempio il riferimento a quanto è avvenuto sul fronte fiscale con la dichiarazione precompilata, eccetera. Però il problema qual è? Che nel momento in cui si comincia a snellire un qualche processo amministrativo, come di intanto in un perverso gioco del videogame ne compaiono altri centinaia, quindi è la struttura stessa del nostro sistema burocratico amministrativo che crea e fa proliferare nuovi oneri. Dunque qua questa è la sfida, perché nel momento in cui si mette in moto una manovra senza precedenti e non si ha la capacità, per indubbie difficoltà burocratica, rendere l'operativo al 100%, qui c'è un problema assoluto che va risolto. Semplificazioni, benissimo, saremo tutti molto felici, però vogliamo vederle realizzate. Certo. Allora, intanto volevo rispondere ad un ascoltatore che scrive: non ho più sentito parlare di aiuti a colf e badanti che non hanno lavorato a marzo e aprile. Vada a riprendersi sul sito di Radio 24 la puntata di questa mattina di Due di Denari, perché con il vicepresidente di Assin.colf, l'associazione dei datori di lavoro domestico, ne abbiamo proprio parlato. Il bonus arriva, è anche abbastanza semplice chiederlo, bisogna avere un qualche requisito, contratti di lavoro regolari almeno fino a febbraio, e quindi andate a vedere, perché che il bonus c'è e basta andare ad un patronato prossimamente e vi saranno date tutte le indicazioni molto semplici per poterlo chiedere, sia che siate datori di lavoro, sia che siate lavoratori domestici, e quindi appunto è molto semplice per poterne fare richiesta. Allora Dino, devo fare un ultimo argomento con un ospite che ci fa molto piacere avere con noi. Ti chiedo di avere un momentino di pazienza perché vorrei che anche tu continuassi a commentare con noi l'ultimo tema che abbiamo scelto per questa sera. Le donne delle zone agricole di Avellino sono scese anche loro nelle strade, volti segnati e decisi, che conoscono la quotidianità della fatica e del sacrificio familiare. All'intollerabile disagio nelle fabbriche e nelle campagne si salda quest'anno il disagio drammatico delle scuole e delle università. Il movimento operaio e popolare si salderà naturalmente con l'altra componente decisiva, quella studentesca, che già in primavera ha fatto sentire il peso della sua forza e della sua protesta. E allora sì, potremmo continuare ancora a lungo, ma siamo andati a caccia di filmati che richiamassero l'autunno caldo di 50 anni fa, quella stagione che portò poi dal 1969 al 70 appunto al varo dello Statuto dei Lavoratori. La fonte normativa la definiscono più importante del nostro ordinamento dopo la Costituzione, quella fonte che ha fissato i principi fondamentali nella materia del lavoro, dell'attività sindacale, del dialogo tra impresa e lavoratori. E allora oggi questo Statuto dei Lavoratori compie 50 anni, esattamente compie 50 anni la legge che l'ha partorito, la 300 del 1970. E allora sono ben contenta di commentare questo anniversario con il professor Giuliano Cazzola. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Economista, giuslavorista, ex sindacalista. Allora, io tra l'altro ero indecisa se farle questa domanda, perché dico, magari penserà che non sono molto gentile, come si ricorda quegli anni. Poi ho visto che lei senza alcun problema l'ha richiamato in alcuni articoli che ha pubblicato proprio oggi, e anzi lei lo rivendica con orgoglio il fatto di esserci stato in quel momento, professor Cazzola. Ma sicuramente, insomma, sono quando... Credo che sia stato uno dei momenti, se non proprio il momento più importante della mia vita, della mia vita pubblica, perché ero molto giovane, non penso non fossi ancora trentenne, e ero segretario nazionale della FIOM e lavoravo con dei giganti, lavorato proprio gomito a gomito, anche se loro ovviamente erano molto più autorevoli di me, io un po' il ragazzo di bottega, anche se ero nella segreteria, e c'erano Bruno Trentin, c'era Pier Carniti, Giorgio Benvenuto, che è l'unico dei tre grandi sopravvissuto ancora, no? Se la cava bene, beh, che abbia più di 80 anni. C'era Gino Giugni, che è il padre di questo. Gino Giugni, ovviamente, lui è stato definito il padre, anche se lì va ricordato doverosamente anche il ruolo che svolse Don Alcattenco. Uh-huh. E prima di lui Brodolini, perché Giacomo Brodolini, poi, che è morto prima peraltro, e non riuscì luglio, esatto, dell'11 luglio del 69. Non riuscì neanche a presentare il disegno di legge. Fece appena tempo a costituire una commissione, la fece presiedere a Gino Giugni, e poi andò a operarsi di un cancro in Svizzera, a Zurigo, ma non ce la fece. E dopo gli subentrò Don Alcattin, gestì il contratto dell'autunno caldo e fu un'impresa favolosa, no? Fu un'impresa favolosa il contratto dell'autunno caldo, e già nel contratto dell'autunno caldo si inserirono alcune norme, diciamo, che riguardavano l'attività sindacale, l'assemblea retribuita, l'affissione, la raccolta dei contributi locali nelle sindacali, nelle aziende, quindi già si misero in quel nuovo contrattuale. Poi venne presentato il disegno di legge e venne fatta la norma. Ecco, Giugni è giustamente considerato il padre, perché è sostanzialmente quello che ci ha messo l'ingegno, che ci ha messo il braccio e la mente, no? Però soprattutto io ci tengo a sottolineare che Giugni ci mise il pensiero, perché la legge 300 del 70 anche allora era innovativa, tanto da sollevare anche problemi anche a sinistra, perché era una legge che partiva dall'idea di sostenere il sindacato, era una legislazione di sostegno che riconosceva dei diritti ai lavoratori, però il loro esercizio passava attraverso il sindacato esterno. E infatti tutti i documenti che richiamano quel periodo ricordano proprio questo concetto, quello della legislazione di sostegno. Di sostegno, che allora non era vista benissimo, mm-hmm. perché anche i giuristi vicini alla CGIL, no? che erano allievi di Ugo La Torre, consideravano i diritti dei lavoratori, no? e guardavano con un po' di sospetto, c'era un sindacato che veniva promosso, cioè che era lui che designava i rappresentanti, che era lui che convocava le assemblee. E poi ci fu anche una lunga discussione che poi Giugni interruppe con la battuta, che era quella anche di riconoscere anche i diritti politici, ma insomma i diritti politici in fabbrica. Giugni disse: se uno vuole leggersi il giornale del suo partito lo può fare, ma non mentre lavora. Sa che ogni tanto qui sotto al Sole 24 Ore ci sono dei ragazzi che vendono il manifesto, no, lotta comunista, non il manifesto, lotta comunista, ogni tanto noi entrando ce lo vogliono dare, dico: ma ragazzi, ma posso comprare io questo giornale secondo voi entrando in questo palazzo? Però insomma mi fa molto sorridere questo pensiero, di questo dialogo molto sereno che c'è tra questi esponenti ovviamente di queste aree politiche, e per me che entro in questo palazzo è abbastanza originale, pur non manifestando ovviamente il mio pensiero, che sembrano però delle situazioni. Secondo me ovviamente si può prendere anche lotta comunista, il problema non può entrare in ufficio, mettersi alla scrivania e leggere il giornale. No, ma noi facciamo anche di peggio, professor Corriere, insomma, assolutamente. Professore, senta, da quella fase ad oggi il mondo del lavoro ha cambiato faccia 1 milione di volte e adesso abbiamo dei grandi temi sui quali dibattiamo, che forse ci fanno anche un po' cercare di analizzare il valore di quel documento ai tempi d'oggi. Oggi in cui parliamo del lavoro in somministrazione, dei riders e delle partite IVA camuffate spesso da lavoratori dipendenti, la flessibilità, oggi lo smart working, il lavoro da remoto. Quanto conta oggi un documento come questo in un mercato del lavoro che oggi ha queste connotazioni, caratteristiche? Diciamo che conta molto poco e molto meno di allora, perché allora io mi ricordo... Ho un minuto purtroppo, poi magari la richiamiamo un'altra volta. Il problema è questo, il problema è che allora si diceva che le aziende al di sotto dei 15 dipendenti erano escluse perché erano marginali. Oggi sono la grande maggioranza, questo è un dato che dice già come il problema sia cambiato. L'altra cosa è che molte norme dello statuto sono state riviste, mm-hmm. quella dei licenziamenti, quella dell'ius variandi, quella del collocamento, allora era un collocamento rigidamente pubblico, adesso sappiamo benissimo che il collocamento sulla spinta dell'Europa si è in qualche modo liberalizzato, no? Erano vietate le assunzioni nominative, adesso le assunzioni sono tutte nominative, e poi c'era la questione anche del controllo audiovisivo, che oggi è cambiato proprio sulla base della tecnologia, e soprattutto oggi è cambiato anche il grande tabù, il grande sacerdote, diciamo, di quella legge, che è l'articolo 18. Esattamente. Professore, non abbiamo purtroppo tempo di analizzare tutti questi aspetti, ma ci è piaciuto moltissimo fare questo salto nel passato e risentire questi nomi che molti di noi hanno solamente studiato su libri universitari e chissà quante persone non ne hanno addirittura mai sentito parlare, e adesso speriamo di aver così introdotto un po' di vento, di novità nella testa di chi ama studiare questi argomenti molto belli, molto appassionanti. Grazie a Giuliano Cazzola, buona serata. Focus Economia termina qui, noi ci risentiremo prossimamente, ancora una volta in serata, ma sicuramente domani mattina con 2 di denari. Buona serata a tutti.